giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caso Tardanieli, la regione non ha deciso se inoltrare ricorso al Consiglio di Stato. Le reazioni delle forze politiche. Trieste e l'effetto Barcolana, strutture ricettive al completo, oggi l'attesa per la 56esima Coppa d'autunno. Giovanni Soldini in barca per Emergency, un equipaggio di navigatori oceanici spinta dal vento di una buona causa. Le giornate autunnali del FAI, aperture straordinarie di luoghi preziosi e spesso inaccessibili. A Udine la consegna dei diplomi del MITS Malignani, i bravissimi del biennio di eccellenza. Basket, Udine vince contro 100 e guarda al derby attendendo le decisioni del giudice sportivo. Trieste stasera in campo a Casale contro Tortona. 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettige. Al momento è ancora presto per decidere su un eventuale ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR regionale che obbliga la Regione a fornire a Danieli i nominativi dei quasi 22.000 firmatari della petizione contro il progetto di acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Lo dicono fonti vicine alla presidenza della Giunta, riferendo che solo dopo la lettura delle motivazioni dei giudici amministrativi si valuterà se incaricare l'Avvocatura regionale di inoltrare appello. Ricorso che la Giunta deve valutare quanto prima, secondo tre consiglieri regionali del PD che in una nota definiscono preoccupante la decisione del TAR e chiamano in causa sullo stop all'acciaieria proprio i vertici della Regione. Il no al progetto è arrivato dal presidente Fedriga e dall'assessore Bini, che dopo aver illuso l'imprenditore si sono rimangiati tutto senza nemmeno proporre ipotesi alternative. Così i consiglieri del PD che dicono Danieli si rivolga direttamente a loro. Contrarietà alla decisione del TAR è stata espressa anche dall'avvocato dei comitati No Acciaieria, Carlo Monai, secondo cui da oggi sarà più cauta l'adesione ad iniziative di sensibilizzazione della pubblica opinione e bisognerà capire quale sarà l'attitudine di Danieli avendo una lista di nomi a lei contrari. Potenzialmente Danieli potrebbe indire cause risarcitorie verso tutti i firmatari, scrivono in una nota i vertici regionali di Alleanza Verdi-Sinistra Possibile. Ci auguriamo, continuano, che non si proceda in questo senso, perché si tratterebbe di una vessazione lesiva della libera manifestazione del pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione. Delusione per la sentenza è stata espressa anche da Furio Onsa, il consigliere regionale di Open Sinistra FVG, secondo cui le dichiarazioni nel ricorso della Danieli sono molto pesanti nei confronti dei cittadini firmatari e renderanno tutti molto più restii a esprimere il loro pensiero quando andrà in contrasto con un colosso industriale. Voltiamo pagina, Trieste tiene banco la Barcolana, giorni di grande animazione non solo per la città ma per un intero territorio, con spostamenti di migliaia di persone per partecipare alla regata o assistervi. Praticamente al completo le strutture ricettive, si profila un'edizione di grandi numeri anche per l'indotto turistico. In tutta Trieste per stanotte non si trova una stanza a meno di 200 euro. Barcolana è il momento di picco per gli albergatori, quest'anno ancora di più se possibile, ci dicono alle reception degli hotel piene di turisti con valigie. Sono velisti e semplici appassionati della regata e della festa che porta con sé. Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi Trieste. Barcolana effettivamente, come sempre, dà tutto esaurito. Il centro sostanzialmente tre notti o anche di più, l'immediata periferia 2 e nelle zone circostanti arrivando fino a Grado, addirittura fino a Lignano, una o due notti. Una Barcolana per fortuna con il bel tempo, ringraziano sia i turisti sia i velisti ovviamente. Persone che vengono un po' da tutta Europa, quantomeno anche alcuni americani, quindi non solamente dalla nostra cara Europa, più o meno equipollenti stranieri italiani. La cosa più interessante è che per la prima volta si vedono effettivamente delle persone venire da, come dicevo, ancora più lontano, dagli Stati Uniti e simili. Una Barcolana che arriva al completamento di una stagione che proseguirà ancora nelle prossime due settimane con la Fiera del Caffè che porta persone da tutto il mondo e ovviamente con il primo novembre. Poi forse la stagione si tranquillizzerà un po'. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E per chi seguirà la Barcolana e vorrà essere sulle rive oggi e domani, va ricordato che sono state chiuse al traffico dalle 10.30 di questa mattina e lo saranno fino alle 2 della notte e poi dalle 9 alle 17 di domani le rive. Il parcheggio del Molo Quarto non è utilizzabile, ma il Comune di Trieste ricorda le opzioni Barcola Bovedo, Centro Congressi e Silos. Per chi invece arrivasse da sud sarà a disposizione l'area del mercato ortofrutticolo con ingresso da via Giulio Cesare. La vigilia della Barcolana è sempre quella più movimentata per la città. Ecco come si consumerà l'attesa per la regata di domani, che sarà seguita in diretta dalle telecamere di Rai Sport, anche su Rai 3bis, canale 103, a partire dalle 10. Sentiamo Andrea Saule. Barcolana 56 che entra nel vivo sulle rive dove i maxi yacht favoriti ormeggiano e che stamattina sono usciti per allenarsi, si scherza. Sarebbe stato da anticipare la regata a oggi, perché le condizioni al largo sono semplicemente perfette, soprattutto per il vento che invece dovrebbe calare nel pomeriggio e domani, almeno la partenza delle ore 10.30, raggiungerà fatica i 4-5 nodi. Giornata di vigilia, di allenamenti, dicevamo, ma non solo, è in corso la Barcolana Classic con protagonista la vela d'epoca, in serata invece la regata in notturna con le classi UFO e Meteor. La prima boa davanti al canale di Ponterosso permette al pubblico di assistere veramente da vicino allo spettacolo. Ieri ricordiamo l'assegnazione del trofeo Porto Piccolo dedicato ai maxi con la vittoria di photo finish di Any Wave e soprattutto la Women in Sailing, regata con mini equipaggi con due uomini e due donne, ma con skipper rigorosamente al femminile. Sui 6.70 la vittoria è andata a Michela Stefani e Pinar Genç, terza, la due volte medaglia d'oro olimpica, Caterina Banti, per l'occasione assieme alla triestina Iana Germani. Tornando a oggi alle 14 invece Furio Benussi riconsegnerà la Coppa d'Autunno, vinta per la quinta volta l'anno scorso. L'obiettivo nemmeno troppo celato è quello di vedere la sua arca tagliare il traguardo per prima anche nella regata di domani. Partirà sicuramente favorita con Prosecco Doc di Cosmina come rivale più quotata. Nel bacino stanno continuando ad arrivare barche da fuori regione, ne arriveranno nel pomeriggio in parata da Slovenia e Croazia. Capitoli iscritti hanno superato quota 1640, superare di nuovo quota 1700 è un obiettivo alla portata. Regaterà per una buona causa, quella di Emergency, l'equipaggio di Ancilla Domini, a capitanarlo un fedelissimo della Barcolana, Giovanni Soldini, con altri navigatori oceanici e con la due volte campionessa olimpica Caterina Banti. Questa mattina la presentazione. Sentiamo Soldini. È molto bello perché non sono da solo, quindi credo che la cosa bella di quest'anno sia proprio questa comunanza, no? Ci sono alla fine tutti i grandi navigatori oceanici italiani, c'è la Banti che ha due medaglie d'oro, chiaramente ci manca tutti Gino perché è quello per forza. Cosa rappresenta l'impegno di Emergency per te? Beh, io penso che per tutti noi navigatori prima di tutto rappresenta la solidarietà, no? E per noi è un valore assolutamente centrale. È proprio la prima legge del mare che impari, ma neanche perché te la insegnano, è proprio insita in chiunque affronti certe situazioni. La solidarietà in mare è una roba molto importante, per cui vuol dire che condividiamo comunque un valore fondamentale che è quello che insomma la vita umana in mare si salva a tutti i costi, poi si discute. Comunque si dovrebbe fare di più su questo punto. Io obiettivamente, come dire, mi sento male all'idea che nei nostri mari ci siano migliaia di persone che affogano. Cioè, francamente è una roba inaccettabile. Tendenzialmente si fa fare al mare, si fa risolvere al mare un problema terrestre. Questo non sta né in cielo né in terra. Intervista di Andrei Marušić. Ora uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 11 a Trieste, Udine, a Pordenone e a Gorizia 18 gradi, a Tolmezzo 13 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 10 e 5, a Sappada 9 e 5, a Forni di Sopra ci sono 11 gradi, 8 gradi sul Piancavallo e ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 4 gradi e 5 decimi, sull'Ussari 5 gradi. Sulla costa a Grado 18, a Lignano 17 gradi e 5 decimi. Queste le previsioni. Oggi pomeriggio in serata su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sui monti variabile. Domani cielo variabile con nuvolosità probabilmente più persistente sulla fascia orientale. Sulla costa nel corso della mattinata si attiverà una ventilazione da prima debole e in seguito moderata da ovest o sud-ovest. La pagina politica al Parlamento europeo è da tempo finito il rodaggio per i neoeletti, già completamente immersi nel nuovo ruolo. Vale anche per i due rappresentanti regionali, Ciriani e Cisint, che abbiamo incontrato a Bruxelles. È già tempo di primi bilanci dopo il voto che 4 mesi fa ha rinnovato il Parlamento europeo. I 2 deputati provenienti dal Friuli Venezia Giulia hanno delineato il proprio percorso nella legislatura. Alessandro Ciriani, di Fratelli d'Italia, gruppo dei conservatori e riformisti europei, ha scelto la Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni. Si occupa anche di migrazioni, di diritto d'asilo e di rotta balcanica. Da sostituto, Ciriani segue la Commissione Industria in un momento delicato per la manifattura europea. Siamo stati imbevuti di ideologia, inseguendo in maniera critica quella che era la dottrina Green. Oggi siamo accorti che abbiamo un deficit di competitività, che non abbiamo una nostra autonomia sulle materie prime, che non abbiamo le risorse per lo sviluppo dei nostri paesi, c'è un deficit enorme rispetto a Cina, agli Stati Uniti e ai paesi emergenti. Ecco, rivedere secondo criteri di buon senso e non ideologici gli indirizzi dell'Europa credo che sia la nostra priorità. Da un ex sindaco Pordenone a un'altra, la monfalconese Anna Maria Cisinti, iscritta in quanto leghista al gruppo dei patrioti fondato da Viktor Orban. Attorno ai patrioti le formazioni europeiste hanno costruito un cordone sanitario tenendoli lontani dai posti di potere in Parlamento. Una condizione che però, assicura Cisint, non influirà più di tanto nel suo lavoro in Commissione Trasporti e Turismo. Il primo obiettivo è intervenire sulla nuova tassa sulle emissioni destinata alle navi. Il Mediterraneo è particolarmente penalizzato perché se qualcuno sceglie di fermarsi in Africa per andare a New York provenendo da Singapore gli cambia moltissimo il costo e se invece dovesse fermarsi a Gioia Tauro, a Trieste. E quindi questo è un tema molto importante che sto seguendo, come anche quello dei combustibili, perché il tema del Green Deal nel marittimo è ancora trascurato. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia, con 576 euro al mese, siamo al terzo posto nella classifica delle regioni in cui si spende di più per il cibo. I numeri si riferiscono al 2023 e sono stati elaborati da Coldiretti su dati Istat. A guidare la graduatoria c'è la Campania con 614 euro a famiglia, vale a dire il 27% del budget. Al secondo posto la Sicilia con 586 euro, al quarto la Calabria che precede le Marche, la Basilicata e l'Abruzzo. La nostra è dunque la prima delle regioni del nord, di gran lunga rispetto alla Valle d'Aosta, 11ª con 529 euro. A livello nazionale la voce più pesante del carrello è quella relativa a carne e salumi, per i quali si spendono mensilmente 111 euro. E ora le giornate del FAI in programma oggi in tutta Italia. Nella nostra regione solo Trieste posticiperà di una settimana per evitare la concomitanza con la Barcolana. Siamo andati in provincia di Pordenone. Non si sapeva né la posizione né dov'era, né dove erano gli ospedali, dove erano la confraternita che controllava, e oggi finalmente abbiamo visto, questa è stata una cosa bella finalmente. È stato restituito una vera chicca a Pordenone. L'edificio si trova di fronte alla Chiesa del Cristo e al suo interno conserva le tracce dell'antico ospitale dei Battuti di Pordenone. Risalente a inizio 300, per 2 secoli gestito dalla confraternita, è stato recentemente donato al FAI tramite l'ascito testamentario di Marilena Busato ed è visitabile oggi e domani per le giornate FAI d'autunno. Amalia Salvadore, delegata FAI Pordenone. Nasce perché la città di Pordenone, che stava crescendo ed era sempre più attiva dal punto di vista commerciale, aveva bisogno di un posto di ricovero per persone indigenti, per ammalati. Questa struttura parte con pochi letti e cresce nel tempo, cresce grazie alle donazioni delle persone abbienti di Pordenone, prima fra tutti i ricchieri. Dopo decenni di abbandono, negli anni 90 la famiglia De Luca, su suggerimento di Giancarlo Magri, decide di restaurare il bene riportando alla luce i suoi preziosi affreschi. Amira Abraham è volontaria FAI Giovani Pordenone. Gli affreschi che possiamo vedere in questa stanza soprattutto sono gli affreschi che erano dedicati alla Vergine Maria, fatti dal nipote del Pordenone, si presume. Questi sono della metà del Cinquecento, la stanza successiva sono della fine del Cinquecento, però della stanza successiva non si sa precisamente chi è il pittore. Comunque si presume che siano sempre della scuola del Pordenone. In regione sono 16 luoghi straordinari visitabili nel fine settimana. A Trieste, aperture posticipate al 19 e 20 ottobre. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parliamo di istruzione. Al Palamostra di Udine questa mattina la consegna dei diplomi del MITS del Malignani. Ne abbiamo parlato con la direttrice Esther Iannis. A chi vengono consegnati i diplomi oggi? Sono 100 giovani donne e giovani uomini che hanno terminato nel luglio del 22 il percorso ITS, percorso biennale post-diploma. Gli ambiti nei quali i ragazzi sono formati sono quelli meccatronico-manifatturiero, i corsi, il mondo dell'arredo, progettazione navale nautica, e il mondo dei servizi video strategy per l'internazionalizzazione delle imprese. Sono ragazzi che hanno trovato una loro collocazione lavorativa, prevalentemente come dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato, e molto spesso in alcuni settori produttivi come partita IVA, come liberi professionisti. Sono ragazzi che esprimeranno oggi sul palco la loro soddisfazione. Sono ragazzi che molto spesso hanno anche già fatto in soli 2 anni dei percorsi di autonomia nel mondo del lavoro, di riconoscimento della loro capacità di avere rapporti con fornitori piuttosto che lavori in ufficio, piuttosto che commerciali. Quindi per noi è una grande soddisfazione celebrare insieme a loro e soprattutto insieme alle aziende che hanno con noi formato questi giovani, festeggiare oggi questa giornata. Gli spettacoli con la musica era già stato inserito da alcuni anni nella Hall of Fame del jazz quando venne a suonare con il suo gruppo all'ospedale psichiatrico di Trieste. Un nome luminoso, quello di Ornette Coleman, un grande del sax arrivato su iniziativa di Franco Basagli ad aprire una lunga serie di esibizioni di vari artisti. Accadeva nel giugno 1974 e a 50 anni di distanza l'evento sarà ricordato con un concerto a Udine nel Parco di Sant'Osvaldo, negli spazi della Comunità 9 a cura della cooperativa Itaca, anche per ripercorrere idealmente la riforma basagliana. A proporre stasera la scaletta di quella mitica esibizione di Ornette Coleman con pezzi riarrangiati saranno 4 protagonisti del nostro jazz di oggi: Mirko Cisilino alla tromba, Roberto Fabrizio alla chitarra, Giovanni Maier al contrabbasso e Marco D'Orlando alla batteria. L'inizio del concerto alle 18:30. Tra gli altri spettacoli di oggi, l'apertura della stagione al Teatro Nuovo di Udine con il concerto dell'orchestra giovanile Luigi Cherubini, diretta dal maestro svizzero Charles Dutoit e dal pianista francese David Frey. E al Verdi di Gorizia, primo appuntamento per Quinta Giusta con il trio Orelon, il pianista Ruggero Fiorella e la FVG Orchestra diretta da Eddie De Nadai. Per la prosa arriva sul palco di Hangar Teatri a Trieste il lavoro più celebre della compagnia Motus, MDLSX, Scandaloso viaggio al di là delle categorie imposte, interpretato da Silvia Calderoni, stasera alle 20:30 e domani alle 17:30. Siamo allo sport con il basket. In Serie A torna questa sera in campo la Pallacanestro Trieste, che dopo le vittorie con l'Olimpia e a Napoli affronta in trasferta Tortona. Si gioca alle 19 a Casale Monferrato. L'avversaria ha 4 punti come biancorossi ed è tra le più ambiziose del lotto. Dall'esito potrebbe essere più chiaro anche quali sono le ambizioni di Trieste, oggi senz'altro catalogata tra le squadre spettacolo. In A2, in attesa di Verona-Cividale domani sera e soprattutto del derby sul campo ducale della prossima settimana, ieri sera l'Old Wild West Udine si è sbarazzata di 100, anche se ci sarà un prezzo in termini disciplinari per i protagonisti di una zuffa sul parquet. Precisa, letale, a tratti tocca la perfezione. Per l'Old Wild West, Udine, la partita contro 100 poteva essere una delle migliori del campionato. Un match da subito a senso unico, testimonia un 27-13 dopo appena 10 minuti di gioco. Hickey, l'americano ex Cantù, è incantevole. La coppia Bruttini e Pini inizia alla grande. Poi arrivano i problemi e non riguardano il risultato. Prima Bruttini, proprio lui, rimane KO alla fine del primo quarto, atterra mai da canestro e si infortuna alla caviglia. Per lui niente da fare, lascia il campo zoppicando. Una tegola per coach Vertemati a 5 giorni dal derby contro Cividale. Ma l'episodio più grave che macchia tutto il match è senz'altro la rissa scoppiata alla fine del secondo quarto. Protagonisti Johnson e Andrea Nobile, ex friulano. Prima un contatto in area, poi la caduta di Nobile. Da qui nasce uno scontro tra i due che diventa una zuffa tutti contro tutti, con Nobile buttato a terra e giocatori come Kanji che entrano in campo per sedare gli animi. Proprio per questo ingresso Kanji sarà espulso insieme ai protagonisti della zuffa Johnson, Nobile e Sperduto. Udine conduceva per 41-33. Episodio inspiegabile e un danno clamoroso per l'APU, che contro la Gesteco sarà più debole, tanto che coach Vertemati si concede qualche sospetto. Dopo la partita ringrazia con ironia Nobile per quello che definisce un regalo, dice, e insinua che il giocatore voglia tornare a giocare in regione proprio a Cividale. Anche dopo il brutto episodio Udine resta più forte in campo, domina i 2 quarti successivi e supera la prova. Finisce 87-69 tra cartellini rossi, rimpianti e preoccupazioni per i prossimi incontri. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Italia. Nel calcio di Serie C, la Triestina è in trasferta a Sesto San Giovanni, alle 15 la sfida all'Alcione, finora la migliore delle neopromosse. E nella pallanuoto comincia il massimo campionato maschile per Trieste, che alla Bianchi alle 15.45 ospita Catania. L'ingresso è gratuito. E ora le manifestazioni enogastronomiche di oggi. È partita la due giorni di Degustibus et Artibus, la rassegna autunnale organizzata dal Pro Spilimbergo e dedicata quest'anno al formaggio. In programma anche dimostrazioni di artigianato locale, laboratori e l'esposizione Il mercatino di funghi a cura di esperti micologi. Comincia oggi anche la tradizionale festa delle castagne e del miele di castagno a Valle di Sofumbergo, nel comune di Faedis, manifestazione che quest'anno ricorda con una mostra fotografica una vicenda accaduta nell'inverno del 43-44, quando tre soldati alleati si rifugiarono in una grotta sopra valle per nascondersi ai soldati tedeschi, restandoci 6 mesi aiutati dagli abitanti del luogo. A Tolmezzo c'è il filo dei sapori, la kermesse che celebra il legame tra cibo, cultura e sostenibilità. Oggi e domani l'inizio dalle 10 si va avanti fino alle 19, le ricchezze del territorio saranno le protagoniste assolute insieme ai loro produttori, con mercati, degustazioni tematiche, spettacoli, presentazioni di libri, laboratori e show cooking. A Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, l'ottava edizione delle Radici del Vino, fiera della viticoltura d'eccellenza. In programma convegni, mostre, un mercato con prodotti tipici e laboratori per bambini. E al via anche la 14ª edizione di Laguna in Teccia, le crociere enogastronomiche a bordo del battello Santa Maria organizzate nella Laguna di Grado e Marano, con partenze da Marano Lagunare e Aquileia alle 15.30, un menù degustazione a base di pesce a chilometri zero. Non perdete domattina l'appuntamento con le nostre rubriche. Alle 9 su questa frequenza, subito dopo la prima edizione del GR regionale, andrà in onda Vita nei Campi. Ecco gli argomenti in scaletta. Nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura le intenzioni di Seminan Agricoltura per l'annata 2024-2025. A seguire la storia di Angelo Floramo indaga su uno dei momenti più delicati della vita contadina, la nascita di un vitellino in stalla. Nella rubrica delle macchine agricoltura, la tutela della sostanza organica dei terreni. E ancora, terzo assaggio radiofonico per la ribolla gialla, quella spumantizzata, per aromatizzare in casa la grappa, ottima scelta quella del cumino. Abellia, un arbusto a bassa manutenzione, ottimo anche per vasi e balconi. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo, il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E in televisione alle 11, sempre domani, su Rai 3, a diffusione nazionale, la nuova puntata di Est-Ovest, il nostro magazine sull'Europa che cambia. In Bosnia, a causa delle piogge torrenziali, i detriti crollati da una cava hanno seppellito il paese di Donja Jablanica. L'inquinamento del Danubio a Belgrado, un pericolo ambientale che il governo serbo non vuole affrontare. I protestanti in Ungheria, una comunità religiosa presente nell'identità culturale della nazione magiara. I neonazisti dell'ex Germania orientale raccontati in un romanzo dallo scrittore Daniel Schulz. L'Ucraina in guerra presentata dal documentario Canzoni di un paese che sta lentamente bruciando. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11 su Rai 3. Questa edizione del GR è stata redatta e condotta da Daniele Letti, Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Giuliano Pecorari e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Sono le 12.54, prossima edizione alle 14.30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.